talismano prodigioso, forse perché tu sei l'amore capriccioso, quando sei vicina m'abbraccia la fortuna ed il mio cuore sorride allora. Tu sei per me un talismano prodigioso che fa sognare un paradiso delizioso, quando tu mi baci e sospirando taci vedo in te il vero portafortuna del mio cuore. Portate via quel cane. My lucky charm. Tu sei per me un talismano prodigioso che fa sognare un paradiso delizioso, quando tu mi baci e sospirando taci vedo altri il vero porta fortuna del mio cuore.